pensa un saluto. Facere battelli, io me lo voglio fiori, studi per l'incendio, vieni. Va bene che mi senti, passa tutti, che non è la festa, tappano la bocca. Causerato nel palle, che mi hanno raccontato, resti putre fatti, ipocrisia, dato su me, devo tacchina, ma tanto come noi, non è nello studi. Io non ho nessuna verità da poter bruciare, solo un sostituto, che prego sentivo il tempo, che mi protegga il giro sul rispetto. Democrazia, se mi prendi a calci, nessun rispetto.